Ad alta voce, Elia Shilton legge I miei premi, di Thomas Bernard. Traduzione di Elisabetta Dell'Anna Ciancia. Ottava puntata. Il premio Anton Wildkens. Anton Wildkens è come Weinheber un Hölderlin da suburbio viennese che si attaglia perfettamente all'anima popolare austriaca. Il premio a lui intitolato è conferito dall'Associazione Industriali, che ha sede a Vienna in Schwarzenbergplatz, in un sontuoso palazzo del tardo Ottocento. Una settimana prima che ricevessi il premio nazionale austriaco, il presidente dell'associazione industriali Meyer Gunthoff, ormai da lungo tempo scomparso, mi comunicò che per quell'anno, dunque il 1967, la competente giuria aveva deciso di assegnare il premio a me. Il presidente concludeva la sua lettera con la solita formula commerciale, che era oltremodo lieto di potermi dare comunicazioni di quanto sopra. A tempo debito avrei ricevuto l'invito alla cerimonia, aggiungeva. Il premio aveva una dotazione di 25.000 scellini, precisava. Di Wildkens non mi diedi affatto pensiero, poiché non lo apprezzavo quanto i miei colleghi scrittori della giuria, che per chissà quale, comunque assurda ragione, avevano avuto l'idea di assegnare quel premio Wildkens 1967 proprio a me. Nelle scuole di recitazione austriache è usuale occuparsi con grande fervore di Wildkens e in particolare già per l'esame di ammissione gli allievi studiano un brano dalla pièce Povertà e poi recitano tutto spiano poesie di Wildkens e quando si tratta di celebrare una solenne cerimonia di Stato al Burgtheater o nella cosiddetta Josefstadt o anche in un ministero non vi è dubbio che qualcuno ricorrerà a un'opera di Wildkens. Il dilettantesco concetto di poesia dell'austriaco medio ha trovato in lui, come pure in Weinheber, il proprio ideale e a tutt'oggi lo si infila ovunque ci sia qualcosa da celebrare. In Wildkens la gente non ammira soltanto quella che ritiene la straordinaria autenticità della sua arte poetica, bensì soprattutto il fatto che un tempo sia stato direttore del Burgtheater. Quanto a me, di Wildkens, ho sempre ammirato il figlio trombettista, che è stato un esecutore assolutamente geniale e uno dei più promettenti compositori del suo tempo. Qui però non intendo parlare di Wildkens, bensì del premio che porta il suo nome. Qualche giorno prima che al Ministero di Minoritenplatz avesse luogo la consegna del premio nazionale, mi era arrivato a casa l'invito alla cerimonia che si sarebbe svolta nella sede dell'Associazione Industriali, un pomposo papiro stampato dalla celebre tipografia Huber und Lerner del Kohlmarkt, in cui era indicato come speciale ospite d'onore il ministro Piffel-Percevic. Se per la mia casa volevo procurarmi nuove imposte in sostituzione delle vecchie, ormai quasi del tutto marce, devo accettare il premio, pensai, e così avevo deciso di accettare il premio Wildkens e avventurarmi in quel covo di bellimbusti salottieri che si riunivano in Schwarzenbergplatz. In linea generale pensavo che l'uomo debba prendere il denaro ovunque gliene offrano, senza star tanto a darsi gogolare sul perché e sul per come. Tutti questi scrupoli non sono niente altro che ipocrisia bella e buona. E così ordinai al mio falegname in loco le nuove imposte. In questo modo avrò un bel risparmio sulle spese di riscaldamento, fu il mio pensiero. 25.000 scellini piovuti dal cielo non li rifiuta nessuna persona ragionevole. Se qualcuno offre del denaro vuol dire che ne ha ed è giusto alleggerirlo, pensai. E l'associazione industriale dovrebbe vergognarsi di dotare di soli 25.000 scellini un premio letterario, laddove un simile premio potrebbe in ogni caso, e senza neppure accorgersene, dotarlo di ben 5 milioni. Da parte sua, però, dà una valutazione giustissima della letteratura e dei letterati, pensai, e addirittura la ammirai per come valutava la letteratura e i letterati che fanno letteratura. Da chiunque avrei accettato 25.000 scellini, anche dal primo che passava. Nessuno rimprovera a un accattone di prendere soldi dai passanti senza domandare come li abbiano avuti i soldi che gli danno. E sarebbe stata la cosa più assurda domandarlo proprio alle associazioni industriali, porsi cioè in qualche modo il dilemma di un sì o un no sarebbe stato soltanto ridicolo. Se sommo i 25.000 scellini delle associazioni industriali ai 25.000 del premio nazionale, entrambi importi spudoratamente bassi per un simile scopo, pensai, lo Stato dovrebbe vergognarsi quanto alle associazioni industriali, perché così assegnano premi letterari pari al magro stipendio mensile di un impiegato comunale di medio livello. Sono però già 50.000 scellini, pensai, e con quella cifra potevo effettivamente farci qualcosa. Lo Stato assegna un premio pari a una misera mensilità e altrettanto fa le associazioni industriali. E con ciò entrambi si mettono in luce davanti all'opinione pubblica, che non si accorge neppure di quanto sia ignobile e perverso questo modo di agire. In effetti, un'associazione industriali carica di milioni, anzi di miliardi, elargendo un misero premio in denaro per l'ammontare di 25.000 scellini, si eleva al rango di straordinario mecenate dell'arte e della cultura, e per questo viene pure lodata su tutti i giornali, anziché essere messa alla berlina senza alcun riguardo per la sua ignobiltà. Ma qui non volevo mettere alla berlina nessuno, volevo solo raccontare i fatti. La consegna del premio Wildkans avrebbe avuto luogo una settimana dopo quella del premio nazionale, così diceva l'invito. Ma quando, come ho già raccontato, la cerimonia per la consegna del premio nazionale andò a monte e il ministro sbatté con un gran botto la porta del salone delle udienze del suo ministero e corse via a precipizio, ecco che l'associazione industriali di Schwarzenbergplatz perse tutta un tratto il suo ospite d'onore per la prevista consegna del premio Wildkans, perché adesso il ministro, in quanto ospite d'onore, aveva comunicato di punto in bianco alle associazioni industriali che non intendeva fare da ospite d'onore a una cerimonia che ruotava attorno a un certo signor Bernard. Aveva cancellato la sua presenza e l'associazione industriali era rimasta con un palmo di naso. Ma ora che l'associazione industriali non disponeva più della sua principale attrazione, cioè il ministro, non sapeva più che farsene neppure dello scrittore Bernard, col quale aveva solo inteso ipocritamente mettersi in scena come mecenate nazionale. E che cosa fece l'associazione industriali? Cancellò l'intera cerimonia e spedì di nuovo cartoncini stampati dalla ditta Huber und Lerner del Colmar, come quelli che aveva spedito due settimane prima, stavolta però non per invitare, ma per disinvitare. La cerimonia, annunciata 15 giorni addietro, era stata cancellata e non avrebbe avuto luogo, era scritto su quelli che definiscono cartoncini di disinvito, di nuovo nello stile spagnolesco dei comunicati asburgici di corte in nero e oro della Huber und Lerner. Anche a me quel disinvito fu inviato, come a tutti gli altri invitati, senza ulteriori comunicazioni sul perché e il per come, e in un misero cilindro di cartone mi fu spedito con la posta ordinaria l'attestato del premio, di nuovo senza alcun commento. Per fortuna mi avevano rimesso, sempre senza alcun commento, anche i 25.000 scellini, una somma che credo sia stata troppo bassa per ripagarmi di tutta quella canagliesca insolenza. Poco tempo dopo, al Caffè Museum, proprio al tavolo al quale soleva sedere Robert Musil, mi incontrai con Gerhard Fritsch, che era membro della giuria e fino a quel momento era stato mio amico, e gli chiesi se adesso, dopo la mascalzonata delle associazioni industriali, avrebbe protestato contro un simile modo di agire, dimettendosi dalla giuria e lasciando la sua poltrona. Ma Fritsch non aveva nessuna intenzione di protestare né di dimettersi dalla giuria. Doveva mantenere 3 mogli e una quantità di figli avuti da quelle mogli, disse, e non poteva permettersi né la protesta per me ovvia, né le per me altrettanto ovvie dimissioni dalla giuria del premio Wildkans. Come padre plurimo e sostentatore di 3 mogli enormemente costose, si disse dispiaciuto per me, e in un tono che trovai ributtante mi pregò di avere riguardo per la situazione. Povero uomo, incoerente, da compatire, da commiserare. Non molto tempo dopo quella conversazione, Fritz si è impiccato a un cardine della porta di casa sua. La vita che si era rovinato con le sue stesse mani lo aveva sopraffatto, estinto. Il premio letterario della Camera Federale di Commercio, Industria e Agricoltura. Il premio letterario della Camera Federale di Commercio, Industria e Agricoltura fu l'ultimo premio letterario che ricevetti insieme con Okopenko e Ilse Eichinger per il libro dal titolo La cantina, in cui descrivevo la mia esperienza di apprendista di commercio nell'insediamento abitativo di Scherzhauserfeld ai margini di Salisburgo. E fin dal principio io questo premio non l'ho messo in relazione con la mia attività di scrittore, bensì con quell'attività di apprendista di commercio. E durante la cerimonia, che senza alcun altro collegamento con la città di Salisburgo ebbe luogo nell'antico castello di Klesheim sulla Saalach, anche i signori della Camera Federale di Commercio, Industria e Agricoltura, che mi avevano conferito il premio, parlarono sempre dell'apprendista di commercio Bernard e mai dello scrittore Bernard. Mi sentii straordinariamente a mio agio tra quei rispettabili esponenti del ceto mercantile e per tutto il tempo che trascorsi con loro ebbi l'impressione di appartenere non alla letteratura, bensì al commercio. Con il loro riconoscimento e il loro invito al castello di Klesheim mi avevano ricordato nel modo più efficace quella stagione rivelatasi poi proficua per tutta la mia vita che vissi da apprendista di commercio, la stagione in cui, sotto la guida del mio maestro Karl Podlaha, rifornì di prodotti alimentari la popolazione dell'insediamento di Scherzhauserfeld. Andando su e giù davanti al castello, prima della cerimonia, tornai a essere, nell'atmosfera autunnale del parco, sommamente propizia alla ricostruzione della mia esistenza di apprendista, il ragazzo di 16 e 17 anni che, vestito del camice grigio da lavoro, con virtuosismo estremo, versava da mezzo metro di altezza aceto e olio senza imbuto nei più sottili colli di bottiglia, cosa che nessuno in negozio era mai riuscito a eguagliare. Trasportavo i sacchi di 80 e 100 chili dal magazzino al negozio seminterrato e sabato a mezzogiorno sfregavo in ginocchio il pavimento mentre il mio principale faceva la chiusura giornaliera dei conti. Aprivo al mattino la cancellata a fisarmonica e la richiudevo la sera. Fra le due operazioni era mia costante volontà servire la gente di Scherzhauserfeld e il mio maestro. Entrando un paio di settimane fa in una delle centinaia di filiali del più grande gruppo calzaturiero austriaco in un villaggio del circondario, vi ho trovato affisse alla parete quelle tesi da me formulate riguardo al comportamento degli apprendisti di commercio e che ho elencato nel mio libro La cantina. La direzione del gruppo ne aveva ricopiato quelle tesi e le aveva fatte stampare in diverse centinaia di esemplari per i suoi apprendisti. In piedi, nel negozio in cui volevo comprarmi un paio di scarpe da ginnastica, lessi le mie tesi affisse alla parete e per la prima volta nella mia carriera di scrittore ebbi la sensazione di essere uno scrittore utile. Lessi e rilessi più volte le mie tesi, senza darmi a riconoscere. Poi comprai il paio di scarpe da ginnastica che desideravo e uscii dal negozio e mi sentii al colmo della soddisfazione. La cantina descrive il mio dietrofront in Reichenhallerstraße, l'istante in cui una mattina, anziché andare al ginnasio, ero andato all'ufficio di collocamento a cercarmi un posto di apprendista e quel che ne seguì. Nel parco di Klesheim avevo ora, prima della cerimonia per la consegna del premio, la calma e il tempo necessari per abbandonarmi alla malinconia che mi aveva assalito in quel parco e mi ci abbandonai volentieri. Prima da solo e poi con alcuni amici camminai lungo i muri a me familiari, lungo quei muri, pensai, avevo strisciato dopo la fine della guerra per attraversare nell'oscurità il sorvegliatissimo confine proibito. In quel castello Hitler voleva allestire una sua residenza. Ma dov'è ora Hitler? In quel castello avevano pernottato più volte i presidenti americani Nixon e Ford e la regina d'Inghilterra. Ora il castello ospitava già la celebre scuola professionale alberghiera che dipende dalla Camera federale di commercio, industria e agricoltura. E per coloro che partecipavano alla cerimonia, i vincitori del premio e tutti gli altri, gli allievi di quella scuola alberghiera avevano cucinato un pranzo assolutamente principesco e apparecchiato una tavola fastosa. La consegna del premio ebbe luogo nel salone, introdotta da un quartetto o quintetto. I commercianti sono gente di poche parole e il presidente della Camera federale fu coerentemente breve. Tutti e tre i premiati poterono udire uno dopo l'altro una laudatio pronunciata da docenti universitari in cui si faceva il tentativo di motivare la loro premiazione. Io avrei inventato una forma assolutamente nuova di autobiografia, fu detto. Dopo la consegna degli assegni, nel mio caso 50.000 scellini, il complesso musicale concluse la mattinata di festeggiamenti. Come si addiceva alla circostanza, prendemmo posto a una tavola decorata con cartoncini scritti a mano che recavano i nomi dei commensali. E con mia sorpresa io sedevo proprio accanto al presidente della Camera di Commercio salisburghese Heidenthaler, il quale, quando ebbi preso posto, mi fece notare che proprio con lui avevo sostenuto l'esame orale di attitudine al commercio. Ricordava ancora perfettamente la cosa, disse, che pure risaliva a più di 30 anni addietro. Sì, dissi, mi ricordo anch'io. Il presidente Heidenthaler aveva una voce sommessa e il suo modo di parlare mi piaceva. Di fronte a me sedeva mia zia e alla mia sinistra il mio editore salisburghese. Una volta che il mio vicino di destra, il presidente Heidenthaler, fece una pausa più lunga, il mio editore mi sussurrò all'orecchio che Heidenthaler era mortalmente malato e non gli restavano neppure 2 settimane di vita. Cancro, mi sussurrò all'orecchio il mio editore. Quando il signor Heidenthaler si rivolse di nuovo a me, la conversazione assunse, come naturale, una dimensione nuova. Adesso usai molto più riguardo ancora verso quel distinto signore che, come sapevo, proveniva da una delle più antiche famiglie di Salisburgo, una dinastia di proprietari di mulini, e più tardi venne fuori che eravamo addirittura imparentati. Aveva letto solo la cantina, mi disse, nient'altro. Nell'esame di attitudine al commercio mi aveva interrogato su diverse qualità di tè cinese e io gli avevo dato la risposta giusta, disse. Quella domanda era sempre stata la più difficile, disse. La festa fu la più schietta che si possa immaginare, così come lo sono i commercianti. Oggigiorno, agli esami, gli apprendisti non erano più capaci di riconoscere tante qualità di tè e neppure tante qualità di caffè, circa 100 qualità di tè e circa 100 qualità di caffè, 100 qualità di caffè e di tè diverse nell'aspetto e nell'aroma, la più difficile tra le domande d'esame, disse il presidente Heidenthaler. Come naturale, in tutto il seguito della conversazione con lui pensai a quel che mi aveva detto il mio editore. all'imminente ineluttabile morte del mio vicino di tavola. Per tutto il tempo pensai a come e cosa potessi dire al mio esaminatore di un tempo per rendergli quel pranzo il più piacevole possibile. Ci scambiammo alcune esperienze riguardo alla nostra comune città di origine, Salisburgo. Citammo una serie di nomi noti a entrambi. Un paio di volte ridemmo anche, e mi colpì che una volta il mio vicino di tavola addirittura scoppiasse a ridere forte. Lo sa che morirà entro brevissimo tempo, o sono solo brutte dicerie? La conversazione con una persona che sappiamo destinata a morire entro brevissimo tempo non è delle più facili. In fondo fui contento quando la mensa venne levata e tutti coloro che vi avevano preso parte si accomiatarono gli uni dagli altri. La festa era cominciata così bene e finiva in modo così malinconico. Nei giorni che seguirono la premiazione di Klesheim, nel mio caffè di Gmunden, che quotidianamente frequentavo apposta per leggere i giornali, lessi sempre per prima cosa la colonna in cui sono riportati i necrologi. Già erano trascorse 2 settimane e il nome di Heidenthaler non era ancora comparso né tra i necrologi né nella pagina delle partecipazioni. Ma il 15° o 16° giorno il nome Heidenthaler stava sul giornale listato di nero e scritto a grandi caratteri. Il mio editore si era sbagliato solo di 1 o 2 giorni, non aveva diffuso dicerie. Rimasi seduto nel caffè a osservare attraverso la vetrata i gabbiani che si buttavano avidi a ripescare dalle acque burrascose del lago, i bocconi di pane delle vecchie pensionate poi sfrecciavano via con alte strida, e ad un tratto riudii tutto quello che il signor Heidenthaler mi aveva detto a tavola a Klesheim, con estremo riserbo e con la signorilità che doveva al suo ceto e alla sua antichissima famiglia. Senza il premio della Camera Federale di Commercio, Industria e Agricoltura non avrei più rivisto il signor Heidenthaler e oggi non saprei sui miei stessi antenati quanto so dall'incontro con lui che i miei li conosceva bene. Thank you.